Oi Lillo, butta giù la pasta che è pronta. Oi Billy. E beh Lillo. Tu sei che finale con Lillo. Aspetto. Buonasera anche a lui. Buonasera, buonasera. Prova là, devi. Ah, oggi sono di riposo, ma oggi una giornata di merda, per carità. Si è bucato pure lo scaldabagno alle 5, era lavoro. Uglia, per carità. E cosa vuoi fare? Anche lo scaldabagno vuole cambiato. Quello sì, anche lo scaldabagno vuole cambiato, sì. Sarruinemo noi e sarruinemo neppure lui. Aggiù Giambato, nel mese di novembre io, Aggiù Giambato. A questo qua aveva anche ragione il mio, cazzo c'aveva 10 anni. Da Edu. È durato più c'è troppo. Appunto, è quello che ho detto anch'io, non posso dire niente perché 10 anni c'avevo, 9-10 anni. Aspetta, io per la via 5 anni. Tira via, si è buccato. A marito che non dice, non si buccava nulla, invece si è buccato in bei rughi. Sì, loro lì. Cazzo, quello calcare che vengono, che cazzo di leva. Via, sa perdere. Cosa vuoi fare? Purtroppo. Sono così, non servono a nulla come scaldabagni. Sì, vabbè dai, in casa ci sentiamo più tardi, intorno, sono appena arrivato, mi porto una ruccia, questo è zucchero romanzano e andecola. Una bella ruccia, mi faccio, che ci vuole adesso, con lo scaldabagno nuovo. Ehi. Fa così, fa. Fatti la doccia, usa in caso, ci sentiamo dopo. Ho chiamato a Gian Maria stamattina, ma com'è stato? Vabbè. Io lo so, mentre è giù. La gente non ha buttato il giudo, ma io stai tranquillo. La vita è quella. Oggi di giorno, domani non si sa. E fa Manuel, lo so, però la casa è vuota. Lo so. Quindi ha detto che stanno piano già. Già sta andando, dai, sta passando un po'. Infatti. Deve tirare avanti piano piano, purtroppo. Siamo così, siamo. Non vi vogliamo far nulla. Un attimo. Non vi sei più. È così. Un amico mio lo stesso. Sta andando da passare, si scappa mia Giulia, cazzo l'hanno automobile, si mette la macchina, per sta giù, un infarto. E c'aveva 63 o 65 anni. Purtroppo, quando è così, noi pensiamo di andare avanti, è coso, purtroppo ci dobbiamo controllare. Ogni mese ci dobbiamo controllare. Lo so, non è ogni mese, anche se ti controlli ogni giorno, Otto. Se ti viene un accidente, ad avvenirti pure se ti controlli ogni anno. Parto e ti avvisa prima, hai compreso? Prima ti avvisa e poi devi stare tu a stare attento. Dattoni, buonasera, cambio. Casella, ci sentiamo più tardi, là. Ciao Manuel, stammi bene. Ciao. Ora Pasqua. Nessuno in ascolto, Dattoni, ragazzi. Chi è? E beh, Tore, come stai? Ma da sempre, tira avanti, giorno per giorno. Ma sentivo che parlavate di malattie, infarto, ma se sei un giovincello? Aspetta che me lo tocco. Sei giovanissimo, ti riporti bene. Ci va avanti. Sono a 72 e mezzo, sì. Ma stai bene o hai avuto problemi, Tore? No, sono solo diabetico e basta. Solo quello. Faccio i controlli. Ero un anno senza avere medico. E sto tirando avanti piano piano. No, allora voi, mi raccomando, io sono in movimento, sono sulla zona di Predalieta, ti sento forte e chiaro, tipo più bene, massimo della, diciamo, del 13. Sì, no, sono qua da Predalieta, secondo dove sei, sarà, voglio già, 500 metri. Allora, 500 metri, non di più. Ho capito, no. Ascolta, stammi bene che devo scendere io. Auguroni, sentiamoci, o più tardi o in questi giorni. Ogni tanto già entro, se devo prendere mio nipote dalla palestra, mi tocca aspettare lì e faccio tardi, quindi non entro. Però, come stasera l'ho accompagnata e sono andato via, quindi mi trovi, se no pazienza. Ho copiato tutto benissimo, no. Allora ci risentiamo e ti faccio auguri, un abbraccio e chiudo, cambio. Ok, altrettanto anche io ti saluto, alle prossime, stammi bene. Ciao. Saluti, chiudo. A pulire. Elu, buonasera. A senatore. Sì, già. Vabbè, tutto bene, sì. Senza ridurori. Fredoci. Tanto dove sono? Mi fa male dalla parte del cervello fino al piede, cazzo. Tipo sciatti, che cosa cazzo adesso? Pure a te è peccato. Oioioi. Andiamo, ogni tanto che c'è dolori. Bisogna che mi muovo, capito? Che stare qua in casa a fresco, non è che sia troppo bello, la verità. E quindi bisogna che mi muovo, almeno qua, mi muovo, sudo e i muscoli si scaldano. Perché dovresti camminare un po' al giorno. Mettiti qualche cosa di caldo vicino e vedi che ti passa. Sì, aspetta, mi attacco la stufa, cazzo, tanto già mi è arrivato il zocco stamattina, 435 euro. Di luci? Di luci. Oh, così tanto no. A me mi arrivi da 1024, ce la pagano 177,99 euro. A me non 400, ma 3,45 però sì. 3,45 tondo tondo mi è arrivato stamattina. Capito? Adesso il 27 me lo pago e va a far culo. Più c'ho... come si chiama la latta dell'acqua e poi della salmonella al latte, la sto pagando fino al 2027, si va vivo. Sì, troppo alta Antonella, la luce troppo alta, vuol dire che c'hai il prezzo altissimo, dovresti andare a fartela passare, ecco cosa è. Dovresti andare all'Eno dove ce l'hai, o prendere quelle private che se cosa. Ogni tanto faccio con Giambendi io a chi tu bresci troppo alto. Vabbè, c'era la stufa dalle 8 del mattino, se vai 10 di notte accesa, mi capito, quello è il problema. Dipende da che stufa c'hai, quale c'hai di stufa? Di quelle a pellet? La stufa di quelle... e ci hanno tutti quei, come si dice, alogene, dove c'hanno 4, cioè 3 regolazioni, accendi 2, prima una, poi accendi 2 e poi accendi l'ultima, capito? Se no avrei pagato di meno, 2 mesi fa ho pagato 100 euro, ma... Ah sì, neanche 100 euro, quasi 80. Quella stoppetta lì è erogena, lì c'è consuma. Consuma rombelli, sì. Ecco cos'è. No, io ho messo un coso che scada. Eppure non è molto come coso, però mi risparmia, mi scalda la camera, però mi risparmio. E quei termoconvertori che stanno pubblicizzati adesso, che la prendi, come si chiama, tira l'aria calda, ho capito. E questo è uno di quelli che ti manda aria calda, arriva fino a 35, arriva come cosa di calore, e non consuma molto. L'ho misurato con le cose che aveva fatto mio cognato, che è venuto, l'abbiamo misurato e non consuma molto, consuma pochissimo. Vabbè, questo mese mi ha fregato, so che ti dico. Quello è il problema. Il prossimo mese adesso mi dà... Non ne uso stufa. Vabbè, ha fatto anche freddo quest'anno, Io lo so che sono in mansarda, no? Quindi l'aria entra, capito? I muri sono ghiacciati, l'estate c'è anche bel riccardo, devi stare con le finestre aperte. Il problema è quello. Io ho contattato uno che permettermi dei condizionatori. Prendi due e paghi uno. Ah, ho capito. No, di qua più in mano a piazzare i condizionatori. Ma l'unica cosa che potrebbe andare, c'è il caminetto, l'unica cosa è la stufa pellet, tanto mi è più o meno la stessa cosa, quando prendi il pellet non è che ti duri un mese, no, un bustone, quindi a 5 euro il coso, saranno 100 euro al mese, forse 200 euro al mese. Sì, no, con la stufa pellet già riscalda e non consuma quasi nulla, perché c'ha le ventole, non consumano quasi nulla con le ventole e ti manda aria calda, ti manda, quindi con un sacco lo fai durare un paio di giorni, lo fai durare, dipende da quanto la lascia accesa. E adesso vedo in seguito, non posso fare altro adesso. C'è quella roba da pagare fino al 2027, quindi vi chiudo dei dubbi. Oh yeah. E vabbè, allora, non so se farmela caratterizzare con questa bolletta. Mi arriva l'allena e mi faccio fare tre tracce da 100 euro e va a far culo. Infatti, la fai caratterizzare. Te la fai, purtroppo bisogna stare attenti con questa cazzo della corrente. Hanno bombardato un bel questi due mesi tra dicembre e gennaio. Ma io ce l'ho, che la luce è aumentata un bel, perché un sacco di gente sta lamentando, capito? Prima pagavo di meno, ma pagavo intorno ai 50-60 euro, massimo uno di più, ogni due mesi. Adesso è aumentata, poi c'ho il bonus scrivi che mi danno è 27 euro, ma l'ho dato e basta. Non dammi le volte 27 euro, ma mettercele io, prendiamo il caffè. Lo so, purtroppo, è uscito Antone. Si può far nulla. C'è la città che venga il tempo buono. Aspettare. E poi condizionare una parte di tutto. Io ho quella elogena, se non giocata una parte, ma non è bongo. Ecco cos'è. Vabbè, io ho lo scaldabagno. quindi i piatti se non li facevi con l'acqua calda, col cavolo li pulisci, capito? Perché si incolla il formaggio nel piatto, quindi devo fare così, per spegnere la stufetta e attaccare lo scaldabagno, poi giusto giusto 5 minuti quando stai facendo i piatti, poi spegnevo lo scaldabagno e accendevo la stufetta. Ecco cos'è che, capito? Scaldabagno ciucciami, cazzo se ciucciami. Purtroppo è così. Si è andato avanti un attesso, piano piano, andare avanti. Purtroppo è lo scaldabagno che consuma più di tutti. Ed io secondo commentando, quando si faccia, mi pongo la caldaia a gas, mi pongo, che consuma un bel di manco. Ti credo, il gas costa un bel, costa. Quindi, l'unica cosa che voglio fare io è, siccome la caldaia non funziona quella che ho io, ce l'ho fuori come se non ci fosse, mettermi lo scaldabagno a gas fuori da 80 litri, almeno... quando l'acqua è calda rimane calda almeno tutta la sera, posso farmi anche tranquillamente più di un'ora di cosa, di doccia. Invece con lo scaldabagno quello da 30, come apri devi fare veloce correndo, devi fare, se no ti arriva subito l'acqua fredda. Purtroppo no, con quella la caldaia a condensazione che sto dicendo io consuma poco, consuma, e gli attacco una bombola, fa che la cambi ogni mese e mezzo, e quindi ti dura parecchio la bombola. Ho capito. Hai vero, tu c'hai la bombola, io invece c'ho il bombone, bella lì qui, hai capito, qua nel palazzo. No, io non mi sono allacciato a nessun posto, c'ho la bombola che è nella cucina, ogni mese e mezzo, due mesi mi dura la bombola. Poi fa che nel coso la caldaia a condensazione ti duri un mese e mezzo, a voglia, certo. L'unica cosa che c'è di brutto, sai cos'è la bombola? Che ti manca o il sabato, la domenica, oppure il giorno di festa. Ce l'ho sempre di riserva una. Una ce l'ho sempre di riserva. Quindi non mi manca. Vabbè, ma io non è che posso lasciarla fuori in terrazzino la bombola. Cazzo, ce la faccio da fare se è brutto. E cosa? Anche perché all'esterno non è che sia molto... Non è, mi fido molto. Io ho qua il bombolone, ci abbiamo, quindi la liquida ci rifornisce a noi. E visto mia sorella paga un bel di gas, arriva anche addirittura anche a 3, 4, 100, 500 euro di gas. Posso da mia figlia, che anche loro hanno il bombolone grande. Quindi in tutta la palazzina, nel condominio, e quando arrivi da bolletta, so, colpi di zicuzento. Io pago solo la cucina in pratica, 27, massimo 30 euro. No, adesso si è tolto il riscaldamento, si è tolto il riscaldamento e usa soltanto per farci nella cucina e nello scaldabagno, ecco. La caldaia usa come scaldabagno. Fa bene. A me lo risparmia un bel po' di soldi, se no già ti fa bella la bolletta. E prima è golpe di 700, 800. Adesso mi sembra che gli sta arrivando a 100, 160, 150, 160 euro di coso del gas. E così dice, vabbè, se non abita in mansarda come sono io, sta benissimo. Se una casa è ben conventata, non entra aria. Qua invece quando fa vento, se va via, c'era buona in faccia, niente, l'aria era sotto la porta, va verso il caminetto, capito, del salone. E quindi dammi un po' di aria fresca. Facciamo aria. È così, purtroppo non ci puoi fare nulla. La vita è cara, sta diventando a vivere. Me ne sono accorto, infatti. Adesso veramente accorto. Vabbè. Questo mese è andata, poi vedremo. Adesso non nascendo per niente su fatto. Quando c'ho freddo, qui che mi si pongo dentro un letto. Sotto coperta e sto bene. Se fai prima calliti. Ma già stiamo avendo le giornate buone, quindi se non faceva, già si sta bene, ecco cos'è, se non piove già si sta bene in questi giorni, speriamo che non torni a venire freddo. Se fa 3-4 giorni di 17, anche 20 gradi, la casa si scalda, capito? E quindi non c'è bisogno di niente, perché deve anche reggiare, se no è un casino, capito? Io ho visto quando esco fuori, giù, tanto per dire, se sono al sole, perché c'è il sole di fronte, ha voglia che mi scalda, il giubbotto me lo devo anche togliere addirittura, questi giorni, a meno che non faccia freddo, ma viene aria gelida attorno, se viene aria gelida il discorso cambia. Sì, infatti, no, cioè come questi giorni ci sta bene fuori, quindi a voglia, già va benissimo. Già lo credo che va bene, a voglia. Non ci sta bene, purtroppo, dobbiamo andare avanti così, dobbiamo andare, piano piano, noi sempre andiamo. A campa oggi deve avere un buon stipendio da 3.000 euro, deve avere. Se ti basta. Già con 750 non ci vivi, non ti rimango al 20. Perché quando vai nel supermercato te ne mangiano, anche portafoglio te ne mangiano, capito? Perché prima una volta ti riempivi il cervello con 50 euro, adesso manco la metà, un quarto secondo quello che prendi. Giusto. Ciao Marco, buonasera. Buonasera signor Marco. Buonasera a tutti, buonasera Tore, buonasera Antonello. Stavo ascoltando da quando stavate parlando di bollette. La stessa cosa l'ho pensata io, questa della spesa, e anche altra gente. Gente uscendo dal market che ha detto alla moglie, ma cosa abbiamo comprato? Dice la bozza del carrello. Praticamente vuoto, 50 euro lui. Lui ha detto la parola due gaggatti, ed era vero, 50 euro due gaggatti ha comprato, allucinante. E noi la bolletta della luce è uscita invece 2,56, di solito ci arriva la metà, poco più della metà, dai, però anche mamma è fissata con queste stufe elettriche e certe volte la lascia a 20 euro al giorno, non dico io, adesso vabbè si è ridotta anche nell'utilizzo, no? Ma c'era un periodo che lo usava a 20 euro al giorno. E poi fanno tutta luzzi e niente caldo a seconda della stufa che è, soprattutto quella logica, tutta luce e niente caldo. Stufa gas in camera non è pure che c'ha paura del monossido, e io ho detto ma che paura devi avere se hai la fine la porta aperta, vabbè. E gli anziani sono così, dai. Vai Tore. Oh, io stufette con l'erogene e cosa no, ci ho buttato da una parte, no. Oh, no, no, quelle consumano, parecchio consumano, infatti ci ho messo di quei termoconvettori e ho visto che fa un sacco di calore e consumano poco e nulla consumano. Ehi, Antonello riprendi, a proposito Antonello, io ho guardato per quello smitter là, però da solo non lo trovi, cioè o chi ti vuole vendere la radio intera, tanto vale, cioè alla fine tu l'hai pagata quella. Invece trovi, è pieno di smitter per Supersat 3009 e Alan 48, di quelli ne trovi a buttarne e ti rifanno pagare anche cari, però di quel tipo lì da solo non l'ho trovato ancora. Capito. Allora l'unica cosa è, io ne ho recuperato uno e dell'FM, adesso mi ricordo se è del Midland o dell'FM 500S, la verità no, non me lo ricordo. E devo in pratica allargare appena appena da una parte all'altra e appena sopra e sotto con uno di quei trapanini se riesco a fare così riesco a farci entrare giusto giusto questo smitter qui e così ce l'abbia in culo. Fatemi un ragazzi che sono al telefono. Avanti su brecche. Buonasera mio hermano. E meno male che c'è qualcuno, ci dai. Ciao Gianni, ben sentito. Ciao Antonello, certi altri amici, Marco, Tore, poi non ho sentito nessun altro, stavo accendendo adesso, perché prima stavo facendo altro. Cantando? Esatto. Ma come sono bravi, bravini nel complesso, c'è qualcuno che spicca particolarmente oppure tutta roba così per la terra? No, c'è gente brava, gente che ha studiato canto, gente che canta sul palco, no, ce ne sono diversi, ci sono i VIP che cantano molto bene. Sì, chi è bravo in quella roba lì dovrebbe andare a quelle cose, quelle esibizioni, tu sì che vale, quella roba lì, mi. Non tanto la corrida, che quella non so nemmeno se esista più, però queste cose qui, è capace che uno si faccia anche una carriera, mi, se è bravo a cantare. Ok, e quindi Antonio, hai capito la storia di Smitter? A meno che non si trovi un apparato per pezzi, sperando che funzioni lo smitter, cioè magari te lo vendono rotto per pezzi, è proprio quello che serve a te, non funziona, mi hai capito? Comunque tensione ne arriva allo smitter, ti volevo chiedere quello, cioè, se arrivava tensione allo smitter, cioè, se c'era un problema proprio dello smitter in sé o dalla tensione che gli arriva, quello è. No, è lo smitter proprio, suo originale che l'ha sbavato. Io ho messo questo delle, adesso mi ricordo se è delle Midland o delle FM500S, è leggermente più, è un pochettino più grande, hai capito? E funziona benissimo, funziona. Quindi l'unica cosa adesso, mi devo procurare un trapanino, quando litigo adesso vado a lì, se riesco a trovare di quelle punte che tipo frese piccoline, mi capito? Con la fresa mi allargo sulla destra, sulla sinistra, poi in alto e in basso, appena sono circa 3-4 mm per parte, capito? E dove c'è un infilo dentro, perché va bene. Ditemi se, a parte che ho la voce rauca un po', ditemi se sto andando bene in radio, questo era fermo da un po'. Oh, io va bene Marco, c'è il grillo sotto. no, va bene, si sente bene, che radio è? Questo è il 7009, CRT, vai Tore. Oh, chi è che ha fatto break? Avanti. Mi sa che Tore è fuori frequente. No, io non sono fuori frequenza, io sono giusto. Stavo parlando poco fa con Antonello. Adesso sì, ma poco fa si è sentito come se fossi di splatter, no? Se c'è davvero, c'è qualcuno a fianco a questo canale che sta sbatterando. No, a me la splatter la mai arrivano col gas, sta tranquillo che il gas non li biglia splatter. Oh, ma poco fa vi siete soprammodulati uno con l'altro. La freccia era andando. Vabbè dai, prendi Marco, vai. Marco, lo riprendi Alice. Ehi, sono qua. tanto, me ne mera. Ma forse se magari si è sentato, non lo so. E ho sentito solamente il beat. E boh, non ci si disguarda. Quindi, sei sul Tricky Trocco, sei, Gianni? Cosa? Sei sul Tricky Trocco. Io ci sono sul Tricky Trocco, sì. Canti là, ho detto. Perché di solito mi sembra che cantavi di lì, quanto mi ricordo io. Ah, che sì. Ma no, io canto su Star Maker, poi magari la metto anche su Tricky Trocco. Ma adesso non esco più mettendo. Mi muta le parole, se ci metti più di tanto a fare la canzone, se è troppo lunga ti toglie le parole. No, capito, pagamento è che gli hai tenduce. No, non è a pagamento, se mai te ne dà. Ah, se ti pagano, già vabbè, ma se a pagamento lo devi pagare tu. No, ma io non prendo nulla, però c'è gente che fa le live. Qualche cazzata gliela danno, dai, non dico tanto, va. Non diventano ricchi di certo. Sì, per fare ciò che bisogna fare l'influencer. Come ti dite, io venite tutti, andiamo a prendere le mele, tutti i pullman, io cazzo. Cosa dite? Stanno guadagnando più quelli che conviene fare più quel lavoro, allora quello paga i dazi. E c'è un ragazzo che vende da casa sua, vende profumi, radio, quelle case amplificate, tutte queste cose qua, e si fa i soldi. Beh, fa pubblicità e chiama, poi direttamente chiamano la ditta e comunque ti danno un campione a te in pratica, capito? Avevo una proposta anche a me, dice, se volevo partecipare mi arrivavano i campioni a casa, gli dico, ah, mi dà molto, cosa volevo farmi? Già c'è un troviaio in camera mia, se cominciate a farmi arrivare i campioni di tutti i tipi, non mi bastava con la passata, ha detto. Come un casino, poi devi spedire, fare, non è così, ci vuole pazienza. No, non c'ho né pazienza né posto, anche perché il garage me l'ha affittato, non sapevo mai dove mettermi la roba, figurati tu. Voi non aiutare a me ne venga la finanza a casa, girarmi le balle. E vabbè, e a me ti fa qualche soldo dal garage. Ah, quello sì. Se devo tagliare appresso, già qualche cosa già me la là. Vabbè, grazie se nemmeno i bugnali ci diranno. Vabbè, intanto cosa me ne facevo dai garage? Non siamo andati a montare la cella, ci ho buttato. Mi è costato 300 euro in viaggio a buttarci tutto quello che mi aveva lasciato Prospero quando è morto. C'era poco di televisori, di quelli modello vecchio, colori, in legno, ne pesavano poco già. Poi qualche cosa che si è salvata era più che altro aspirapolveri, quelli piccoli, poi temo convettori di quelli per casa, per il bagno, capito, caldo bagno, eccetera eccetera, ma poca roba mi hanno già fatto quasi tutta regalata, figurati. Aiutai vai a Giuseppe, ho detto caricati tutto nel furgone, ho detto vorrei allangiati, vedi, fa quello che ti fa e ti piace, poi gli garaci libero, gli ho detto. E inutile che mi tenga la roba, ho detto a casa, gli ho detto, così me ne vado all'interrazzo a dormire. E la moto dove l'hai messa? In fondo adesso tanto pezzo non le trovo, quindi ci avevo portare di Marocchino, martedì prossimo, se l'accettano gliela porto direttamente lì al quadrato, gliela lascio lì, poi se non lo trovano i pezzi se la sistemano, fanno quello che gli pare che piace, le batterie comunque per quelle me le tengo io perché le ho comprate io, 150 euro l'una. E non va lo stesso così? No, va perché c'è la centralina bruciata, capito? Si è bruciata, anzi, non è bruciata, era bruciata prima, si è bruciata, ma non è riuscito a trovarla. Ma cosa, a seconda mano, su, ho chiesto su, ma fare i quicitti, no, non vendete, capito? L'unica è se riescono a trovare magari qualche cosa lì a Sacarillo, e poi la trovo uguale, non faccio altro che portarmi le batterie e me ne vado con la carrozzina fino a Sassari, a voglia che ci arrivo qua. Sì, Antonè, però c'è qualcuno che revisiona le centraline a Sassari, fa anche quelle della macchina. Ah, questa è la centralina del frontalino, capito, lì davanti, dove ci sono i comandi, è quella che si è bruciata, poi proprio la centralina che c'è le, dove c'è il motore, quella non c'ha niente, capito? La 24 arriva lì, poi da lì scende direttamente dove c'è il motore, c'è l'altra centralina, c'è, ma quella è buona, ho già controllato. Ma magari si fa aggiustare, vabbè, vedi tu. Scusate, eccomi, ma c'è qualche circuito integrato in quella centralina, Antonella? Tutto transistor, è tutta oscillata, ho provato anche a risaldare il condizionatore, non risalda più, capito? Lo stagno è talmente oscillato che non gli fai nulla, capito? Poi l'ho stampato anche doppio, figurati tu. Peccato però, vabbè. Manco ti sei goduto le batterie. Purtroppo a comprare roba usata è sempre un salto nel buio, Antonè. Che siano baracchini, che siano mezzi, macchine, moto, roba elettrica, quella che hai preso tu, è sempre un'incognita. Vai Gianni. Infatti, se sei fortunato vai bene, ma se non sei fortunato, specie con le macchine, cominciano a darsi problemi. Ce lo credo, ce lo aveva problemi quando avevo comprato la 1 con la Celeste, mi aveva dato problemi dopo un po', ci stava spendendo un sacco di soldi, ha preso si è preso la cosa, la macchina di mio padre ha fatto prima, almeno quella la Polo non dà problemi. Ma se per la Polo ci avevi? La Polo Grigia, da ricordi. Sempre quella, sempre quella. Poi ho avuto anche la blu, la prima che aveva comprato il babbo, che me l'aveva regalata, mi ha detto che questa è per te, quando si piglia la patente. Poi invece ho preso, e come una casa mi piglia la patente, lo saranno. Preso, ho venduta alla mia padrona di casa, 3 mesi d'affitto, 1500 euro mi ha dato. Marco, e tu? Stai uscendo? Sì, così così già. Di notte no, non ne ho più voglia. Scusate, poco fa, questo mic è così sensibile, appena lo tocco, come sfioro il tasto, trasmette, quindi ogni tanto mi parte la portante. Quindi già, no, meno di prima, è a periodi, capito già. Ma col sole non stai uscendo a frotta buona così mi gira, sì, più di giorno che non di sera, di notte. Poi adesso, guarda, stamattina c'era una temperatura che mi sembrava quasi pre-primaverile. Io ero in camicia, camicia felpata, però stava così bene a Piazzale Segni. Ma cosa c'era a Piazzale Segni? Nulla. Il bar, ho portato mamma a pascolare, siamo pigliati il cappuccino, ma stava bene, non c'era vento, è spuntato appena appena il sole, però anche senza il sole stava bene come proprio temperatura dell'aria, e mi pare che fossero 15 gradi all'ora di pranzo almeno, può darsi che il pomeriggio anche siamo saliti anche a 16, chi lo sa, sembrava, vabbè, per come sento il caldo io già mi sembrava primaverile. Sì, ma facendo una bella giornata, la serata arriva al bar. Già, scandisce meglio le parole. Ho detto, dove sei andato? A Real Bar. Manco il nome, a fianco a MD. Real Bar. Real Bar. All'aperto, a me non piace stare al chiuso. Per stare al chiuso me ne sto a casa. Mi piace proprio nemmeno il gabbiotto di vetro, no, proprio all'aperto. Quel bar lì andavano tutti i pezzi grossi la domenica, adesso non apre più la domenica, ci andavano il sindaco, tutti gli assessori, gente che lavora la regione. Eia. KK, chi c'è rimasto qua? Tore è rientrato, sì. Sì, che sono rientrato, sono qua, sto ascoltando voi. Avvisa, avvisa. Sì, ascolto, ascolto. E quelli di gelato, Ma mi vedo il gelato. No, gioco, mi devo controllare la glicemia da voi. Se no, non abbiamo mangiato. Adesso sono d'estate, sono a mangio le digerate, l'inverno non è comodo. Qualche tiramisù da. Sì, è così che ci vuole una risveglia per la glicemia. Ma è buono, ma è buono che va. Una volta di tutto si può fare uno strappo alla regola, non mangio altro. Così, quando mi sale 120, 125, buco. Non mangi altro, non mangi pane, non mangi pasta. Voglio vedere se ti sale l'impicco. Dato che sono riuscito a avere il medico, ho passato la visita sabato scorso, che all'otto di Marzano. Vabbè, vabbè da un anno, mi sono riuscito. E quante visite ti ha dato da fare? Certo, è l'oculista, ma meno male per l'oculista ce l'ho il 1° dicembre, ce l'ho, quindi devono chiamare loro a dicembre, quindi già andiamo bene, poi le codople, ma appunto. Il resto da fare gli analisi. Beh, sei bello impegnato. Avanti, va. Cappa, io mi sono fatto i prelievi per quella roba ormonale l'altro giorno, adesso mi dicono se devo ritoccare qualcosa, dai. E poi non parlate dei gelati. Qua, allora già, la cosa strana, io certe volte mangio più gelati in inverno che in estate. Qua non manca mai, qua nel freezer abbiamo sempre le coppette piccole, la marena e il gelato biscotto, o vaniglia o quello bigusto o trigusti. E non manca mai. I cornetti un po' meno, però e lo mangio di notte, lo sai, di notte, prima, dopo che mi guardo il secondo film notturno, tipo mezzanotte e mezzaluna, tanto io vado a letto tardi, mi viene quello il gelato e uno me lo devo mangiare. Che fai, beh? No, io d'inverno non le mangio, no, non ne sento la necessità, ma d'estate, a baschette mi mangio, mamma, le baschette in te. Non so perché in estate certe volte prendo quello sfuso, no? Col cono fatto di ostia e mi dà futta perché in estate non fai in tempo a leccare che ti si scioglie tutto e già ti arriva sulle mani, capito? Non fai in tempo e ti si scioglie prima di riuscire a consumarlo correttamente. Io non sono bravo con la lingua, ecco. Io sì, io non gli do tempo a sciogliersi, già si scioglie dritto. Vero? E io ti credo, però quando vado in bagno da voi, deve mai accusci. No, basta scaldare un po' in bocca. Avanti, tu le mani gelate. Sì, estate però, d'inverno no. Il gelato alla birra. Sono i cornetti, poi a volte, non sai, quando vado a al supermercato, devi aspettare il tram e cose del genere, e quindi arrivo a casa che è già mezzo sciolto, quindi se lo metto dentro la bicchiere faccio prima. Allora, ho fatto il gelato alla birra per l'inverno. Oh, yeah. Carità, la birra me la sto bevendo verso l'una e mezzo, le due, dopo che ho finito di lavorare, sto facendo dei lavoretti, la bevo insieme a quello che c'è a me, e poi rientro a casa e pranzo, e poi la sera non tocco nient'altro. No, io quando mangio la pizza sì, mi bevrebbe una lattina di quelle grandi, però se no non le tocco. Tutto alle bevi? Sì, qualche volta sì. Quando sono con Magnelli, qualche birretta in due ce la beviamo. E anche con la pizza ci sta bene, dai. Solo che amassi, non vai pure, la birra a casa di Bevani, sono cacchi. Conviene farla a casa, statene a casa quando te la bevi. Sì, ma se rimane fermato a me. E gli ho fatto guardare che sono diabetico. Sì, sì, anche la glicemia, misuriamo qua. Schiatta! Ma ha fatto va! Ha mandato un po' così della glicemia! Se non mangiamo qualche caramella mi scaramo in chili! Fatta la misura! Ehi, con la glicemia, dice, ma lei ce la faccia la glicemia, non ce l'ha alta, mi ha detto, certo, dice ce la faccia, ce l'ha, ah, ma dopo una caramella mi ha dato, facciami la glicemia, no, le cose erano normali, non avevo bevuto nulla, non avevo bevuto. No, ma chi ti ha fermato, i vigili urbani? No, la stradale mi ha fermato. E ti hanno chiesto la patente? Sì, quella sì. E mi hanno detto, dice, a dedicare qualcosa, che sono diabetico, l'ha giudito. Gli ho avvisato. Dice, non fa nulla. Ma mi ha fatto un orologio, mi ha fatto. L'ho fatto e ero tranquillo. Non va via nulla. L'unico che troviamo è basso di cose, ecco la glicemia bassa pure, mi ha detto. Caspita che andiamo bene, mi ha fatto. Vabbè, vuol dire che oggi è toccato a me. Ma loro sono autorizzati a fare queste cose, a me non mi sembra che siano autorizzati. Marco, che tu sappia, autorizzati sono a fare queste cose. Non sono autorizzati, Marco, a partire il chilometro se ti vedi. Guarda, già, non saprei dirti, perché a me non mi fermano da secoli, almeno la stradale, quella la temo perché trova sempre qualcosa, qualcosina la trova, o una gomma appena appena col battistrada basso, non lo so, però, ma perché addirittura che ti facciano cose mediche, cioè capisco l'etilometro, ma la glicemia a me sembra strana, comunque stanno allargando troppo, ho sentito dire anche che volendo ti possono chiedere, non so se è una balla, però ne stanno parlando in rete, che possono chiederti di vedere il telefono per vedere se stavi telefonando mentre stavi guidando, quindi pochi minuti prima. Si stanno allargando a dismisura, allora fateci andare a piedi direttamente, tanto non puoi bere, non puoi fumare niente, non puoi pigliare farmaci, perché a seconda di che farmaci prendi, quando ti fanno quella prova lì risulta che teoricamente, cioè prima ti spiego, dovevi essere in stato di alterazione. Dovevi aver bevuto ma essere anche alterato, no? Cioè, visivamente si vede che sei messo male, in poche parole. Adesso basta che gli risulti qualche parametro alterato, magari dai farmaci, che sono autorizzati a sospenderti la patente. Quello è Salvini, mi capito? Quell'ottuso. E infatti io questo periodo che stavo facendo, prendendo quelle medicine per il dolore, non ne stavo usando macchina, perché per un mese mi pare che risulta. Poi, ma tu ogni quanto la fai l'esame della patente, ogni quanto lo stai facendo, ogni 3 anni adesso me l'hanno fatto, per 3 anni, e la devo fare il prossimo anno, la devo rinnovare, nel 2026. Perché tu essendo diabetico la devi fare ogni 2 anni, lo sai, ma come lì che non te la dico, scusi, il diabetico la sta facendo ogni 3 anni la patente. Ogni 2 anni bisogna farla, è così, fai la vita la riguardo di mangiare in chi. No, a me quello dell'ACI mi ha detto, dice, no, lei ha fatto i 70 anni, quindi ogni per 3 anni adesso, se non arrivi a 80 anni, da 80 anni a 2 anni, quindi no, anche se sono diabetico, quelli con l'insulina che la fanno ogni 2 anni, io sono con le pastiglie e la faccio normale 3 anni. Non specifica pastiglie o insulina, dice che i diabetici la devono fare ogni 2 anni, perché se hai un'invalidità che praticamente ti può portare a un malessere o qualche cosa del genere, anche se prendi le medicine, il malessere lo puoi avere lo stesso, se ti si abbassa la glicemia come ti è successo puoi avere un malessere, vabbè, comunque informati. Ah, quello dell'acido mi ha detto, diciamo, ma detto, cosa prende, insulina o pastiglie? No, mi ha detto 3 anni, il medico mi, 3 anni mi ha detto, va benissimo, non c'entra nulla quello ancora, la legge non è uscita per queste cose. Vabbè, io la dico, vabbè, comunque, avanti, hai. Adesso fermano anche quelli che sono a piedi, mi. Si trovano appena che è bevuto, ti mettono la multa, già lo sai, i vigili urbani, anche se a piedi. Quindi adesso bisogna stare molto attenti, bisogna stare quando affetti, quando cammini, se no ti mettono la multa. Ma io avevo visto su internet, su TikTok, che questo era parcheggiato con la macchina, è sceso dalla macchina, c'era un posto di blocco, mi pare dei carabinieri, l'hanno fermato, gli hanno fatto le chilometri, gli hanno messo la multa, anche se l'hanno vista a piedi, perché prima lui deve essere in macchina, l'ha parcheggiata perché ha visto i carabinieri e l'ha rimizzicato. Quando vado a circo una volta, prima controllo se c'è una pattuglia di vigilanti o un po' di blocco, pur vado a per sicurezza. Paolo, in città. Di fronte alla chiesa si mettono dalla parte dove ferma il tram, si mettono lì e guardano chi scendono, perché scendono a velocità sostenuta invece che a fare a 50. Ma di fronte alla chiesa va buco da Gulimi, ci sono quelle dure che devi rallentare perché sennò vuoi. E stanno aspettando che mettessero il coso, andare a 30 qua di fronte alla chiesa. Ma io ho capito bene, la chiesa di Don Gambino, sai, c'è. Ehi, alla chiesa di Don Gambino qua, a Santa Maria di Pisa. E dove si mettono? All'inizio del ponte. Presente cioè la chiesa, di fronte alla fermata del tram. Se sta salendo è alla parte sinistra che si mette, invece se sta scendendo è alla parte destra, dove c'è la fermata del traffico. Che miserabile. E anche sulla Budimundi, a mamma le bizzicate in chi? Sulla Budimundi a 70, a 68 e c'era il limite di 50, mi hanno preso 3 punti della parte, 3 più 180 euro di multa. Vi volevo chiedere. Cosa volevi chiederci? Loro usano il telelaser, no? Così a distanza riescono a, insomma, determinare la velocità, no? E poi vedono anche ravvicinato, come fosse un cannocchiale, un binocolo, no? Anche un chilometro ti becca. Ma non c'è qualche dispositivo da mettere sul cruscotto, sul parabrezza, qualcosa che rileva a distanza la radiazione del laser e te la segnala? Non lo so, prima metteva quel dischetto, quello dei CD, perché dice che rifletteva e non li faceva prendere, oppure metteva la lacca nella targa, però sono cose che non funzionano più, perché adesso sono macchinari particolari che riescono a prenderti lo stesso numero di targa, maledizione, addirittura adesso risalgono anche all'assicurazione se ce l'hai o no. Sì, guarda, bastava, io avevo sentito, il carabiniere aveva un sistema, almeno credo, con la sola telecamera che hanno in macchina, rileva le targhe e in tempo reale ti dice se quella targa è senza assicurazione, se la macchina è rubata, aveva un nome, sistema, ma non mi ricordo, non so nemmeno se è una balla, l'ho letta su internet. No, sai perché? Allora, in certi paesi, tipo America, dove usavano il radar, non usavano il laser, usavano il radar per determinare la velocità dei veicoli. E tu c'avevi questa sorta di apparecchietto, una specie di ricevitorino, che ti segnalava la frequenza del radar, cioè che c'era un radar di quel tipo della polizia attivo e ti suonava qualche cicalino, allora rallentavi, no? Però con laser magari l'hanno fatta, ma non so se sia lecito. Se no bastava incorporare nel faro della macchina il sensore, se ci fosse, per rilevare la radiazione del laser, che ha una certa lunghezza d'onda, mi pare, se il laser rosso sono 630 nanometri. Vabbè, sarebbe interessante, bisogna cercare su internet. Però bisogna vedere se fa in tempo il tuo dispositivo a rilevare il laser o loro a rilevarti la velocità, capito? Marco, comunque è vero, perché anche i vigili urbani, perché qua vengono a farsi prelibi del sangue sotto casa, perché questo qui è un medico del lavoro, quello che c'è sotto casa, e poi i vigili urbani, la forestale, cioè quelli della vecchia urbana, c'è tutti questi appalti qua. Le ho viste, le telecamere sono attaccate al vetro di davanti e c'è la telecamerina puntata verso la strada e c'erano anche i vigili urbani. Ah, quel sistema lì, però il telelaser, ecco, non so se il telelaser, vabbè, adesso vi documento su internet, perché poi io non sono tipo che eccede nella velocità, però anche fuori città.